Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Una nuova settimana di Eclettica, beh, a tutti gli effetti è già cominciata ieri con la prima pillola e proseguita quest'oggi con la seconda pillola, sempre alle 10.55, le incursioni giornaliere che permettono al pubblico giornaliero di Rock FM di capire che cosa succede alla notte qua su Rock FM tutte le sere alle ore 22 tranne il lunedì sera. Eclettica è trasmissione che cerca di creare un'atmosfera non solo con la musica ma anche grazie agli spezzoni cinematografici e agli incipit letterari, e questo tentativo verrà portato anche all'interno di un luogo fisico, e quindi Eclettica, ovvero del come creare un'atmosfera in un luogo pubblico, appunto con questi tre elementi che ho elencato. Su MySpace ho indicato questa cosa come un non DJ set, perché non è un DJ set, anzi la figura del DJ dovrebbe quasi sparire, essere amalgamata in tutto il resto, chiaramente parafrasando Alice nel Paese delle Meraviglie. Tutto questo succederà nella città di Arezzo il 30 di marzo alle ore 21.30, dalle ore 21.30 in poi, alla libreria Edison. Magari darò anche dei dettagli proprio in termini di cartina su MySpace, e ovviamente i privilegiati saranno gli appartenenti alla lista nera, troveranno lì sopra tutte le informazioni di dettaglio che gli fornirò e che potranno chiedere magari anche scrivendo a giulio@radiorockfm.com. Non è mica un lavoro facile andare a stare in città. Che senso ha? Cosa vuol dire? Dov'è la necessità? Lì d'attorno hai la tua vita tutta intera, quello che ti basta, tutto il tuo bisogno, senza stare a cercare inutilità più o meno vaghe, di località remote, di posti sentiti dire ma non conosciuti e forse paurosi. Hai un fiume, dei monti, degli alberi, delle stagioni, della gente che conosci e incontri tutti i giorni. E allora? Non si vive? Non si mangia? Non siamo già coperti e rincalzati, protetti dal freddo e da altri eventuali spiacevoli, improvvisi accadimenti atmosferici? Siamo garantiti o no? Cosa c'è da andare a cercare in luoghi che non sai? Cos'è questo improvviso desiderio d'avventura, di cambiamento, di emigrazione, di Patagonia? Questo era l'incipit di Vacca d'un cane di Francesco Guccini. Would you cross the line for me? For a second. Thanks for walking us back. Yeah, no problem. Are you going to the prom? Huh? I thought maybe we dumb. We could go together. Oh, you're gonna go with like a bunch of people, or is that? Yeah, you want like a designated driver? No. I mean, you and me. Like we could go together, the two of us. You and me? Yeah. Well, is that a yes or a no? Sure. All right. Good. Cool. I'm gonna take Warren back inside. I'll see you at school. Bye. Cool. Catch you back at school. In questa prima parte di Eclettica stiamo lentamente alzando il ritmo. Siamo partiti con... posso definirlo post-rock? Ma sì, dai, con sfumature magari inusuali, però possiamo definire post-rock la musica che ci siamo ascoltati da parte degli svedesi Jennifer Ever, che incidono per la Midfinger, o meglio, originariamente incidono per la Drowning Sound Recordings, e per quella etichetta avevano pubblicato Choose a Bright Morning, e i tipi della Midfinger si sono innamorati di questo disco e hanno deciso di pubblicarlo anche in Italia. Noi abbiamo aperto Eclettica con il brano dal titolo The Sound of Beating Wings, poi abbiamo proseguito con il pezzo delle Client che da qualche settimana sta caratterizzando queste nostre playlist, però non ce lo stiamo ascoltando nella sua versione originale, quella per cui la casa discografica vorrebbe che fosse trasmesso in quanto singolo, ma a me è piaciuto molto questo lavoro che è stato fatto, Dobro Remix, da parte di Busta, e quindi io mi sono orientato su quella scelta. Ritmi che si alzano sempre di più, vi dicevo, in quanto stiamo per spostarci su un nome nuovo per quanto riguarda Eclettica, i To My Boy, pop futurista da Sheffield e Liverpool. Vediamo un po' la definizione che avevo letto, che mi piaceva. Sono punk elettronico a 8 bit. Fra l'altro stanno anche per arrivare in Italia con 4 date, dal 27 al 30 di marzo, a partire da Roma, poi Perugia, Firenze, per chiudere a Milano al Circolo Magnolia. Noi ce l'ascoltiamo con il secondo singolo in assoluto della loro carriera, To My Boy con The Grid. Attenti alla botta. Got to break a line of steel. Got to kill the motherfucker who wants to get rid of us all. Questa settimana mi sono giocato subito la carta del profumo di Eclettico, ovvero sia la carta del ripescaggio dalle vecchie playlist di questa trasmissione. Nel caso specifico era il 1998, quando il duo messicano dei Plastilina Mosh uscì con questo album, prodotto, registrato, realizzato comunque completamente in California, dal titolo Aqua Mosh, dal quale ero indeciso fra due brani che in quegli anni erano passati tantissimo dalle parti di Eclettica: Mr. P. Mosh, che non ci siamo ascoltati, e invece Nino Bomba, che è il brano che ci siamo ascoltati a tutti gli effetti. Rimaniamo in California, dalle parti di Lavender Diamond, la voce di Becky Stark, che è quella che ci stiamo per ascoltare per l'ennesima volta qua all'interno di Eclettica con You Broke My Heart. Thank you. Siamo arrivati alla chiusura della prima parte di Eclettica delle 4 di questa settimana. Giulio Caperdoni vi saluta sulle note dello Sguardo al cielo, il brano che dà anche il titolo all'ultimo album degli Anonimo FTP. Eclettica. Fine della prima parte.